Allora, 11 febbraio, siamo al posto di Verona, concerto dei Garden Wall. Alessandro, soddisfatto del concerto? Sì, nonostante da un punto di vista tecnico avremmo potuto suonare anche meglio, però l'impatto è stato molto buono, la risposta del pubblico eccellente, per cui sono decisamente soddisfatto. Oltretutto ricevere complimenti da persone del calibro di Franco Rossi, che è probabilmente il miglior batterista italiano, sì, è una cosa che fa sempre molto piacere. E del fatto di Seduction of Madness? Sicuramente, sì, siamo molto soddisfatti perché credo che The Seduction riesca a coniugare in modo ottimale una ricerca ritmico-armonica molto estrema con però l'energia selvaggia del rock, diciamo così. Presentiamo i nuovi membri. Marco Ferrero, sono lo Stick da poco in questo gruppo incredibile che sono i Garden Wall. Ti sei ambientato bene? Sì, direi di sì, anche perché ci si conosceva da un po' di tempo e quindi sì, non c'è stata nessuna difficoltà. Poi quando i musicisti sono professionali e bravi non c'è nessuna difficoltà neanche da quel punto di vista lì. Altro nuovo arrivo? Io sono Camillo, sono il penultimo a essere entrato in questa, diciamo, congrega. Praticamente sì, è un gruppo in cui riesco veramente a esprimere quello che voglio suonare, insomma. Sono molto soddisfatto del disco e di come andiamo nei rapporti personali e in generale di tutto. Mauro, in che modo Seduction è diverso da Principium e Paths of Dreams? Ma sicuramente un salto di qualità l'abbiamo fatto con Camillo. In effetti, per quanto bravo fosse già Thomas, che ha suonato sui primi due dischi, cioè il fatto che Camillo sia venuto a suonare con noi ha reso ancora più contorte le trame ritmiche che già cercavamo di avere, di fare. Alessandro, rapporti con la Music Intelligence, Wurstmann? Oh, che bel tasto che tocca! Diciamo questo, indubitabilmente lui è, nel frattempo è arrivato un altro personaggio abbastanza clamoroso qui. Abbiamo qui Sergio dei Top Left Corner, come va Sergio? Bene, grazie, ciao. Grande, comunque stavi dicendo? Un grande personaggio, indubitabilmente, ciao carissimo. Stiamo parlando di Wurstmann. Wurstmann da un lato ci ha dato la possibilità di incidere dei dischi e di questo noi chiaramente dobbiamo ringraziarlo, perché lui paga lo studio e in qualche modo si mette nella condizione di poter fare qualcosa che altrimenti sarebbe abbastanza difficile da fare. Dall'altro lato è una persona, diciamo così, distratta, voglio dire, quando si tratta di onorare certi impegni contrattuali non sempre è puntuale e questa è una cosa che dobbiamo in qualche modo chiarire, perché l'arte è una cosa fantastica per noi, ma lo stomaco certe volte dice che il pane è meglio dell'arte, per capirci, insomma. In ogni caso io verso Wurstmann ho sicuramente un sentimento in qualche modo di gratitudine. Naturalmente lui ha avuto in ogni caso un certo tornaconto, perché insomma bene o male noi, pur non vendendo una quantità di dischi spaventosa, vendiamo insomma discretamente e lui non solo su di noi ma anche su di noi vive insomma. Hai detto le stesse cose che hanno detto tra l'altro Asgard e Black Jester, quindi siamo capiti. Influenze dei singoli, cominciamo. Influenze svariate, molteplici. Questo è Marco. Sì. E diversificate, direi tutto. Tutto. Camillo? Io in qualche modo mi associo a Marco, anche se ti do alcuni puntelli fondamentali. Ti potrei parlare di Weather Report, Frank Zappa, Dream Theater e Queens Rake. Ok, detto poco, eh? Mauro? Ma io credo di essere influenzato un po' di più dal rock anni 70. Volendo fare qualche nome, Genesis per dirti, cioè come ideale di musica, però fondamentalmente cerco di essere me stesso quando suono. E Alessandro? Diciamo che io potrei anche fotocopiare quello che ha detto Mauro. I Genesis sono il mio gruppo preferito. Tra le altre influenze citerai senza dubbio Vandergraaf Generator, i Gentle Giant, i King Crimson, i Dream Theater, i Queensryche, e non sottovaluterei la musica contemporanea, quindi non so, Stravinsky, Debussy, questi personaggi qui insomma. E come attività live adesso? Ma adesso finalmente abbiamo raggiunto una stabilità per quanto riguarda la line-up, per cui speriamo di suonare il più possibile, anche se ci rendiamo conto che il genere che proponiamo non è proprio l'ideale per fare un grande numero di serate. Speriamo comunque un po' alla volta di suonare sempre in modo sempre più frequente, perché regolarmente perlomeno, perché chiaramente ne abbiamo bisogno sicuramente, cioè suonare dal vivo è un'ottima promozione per quello che facciamo, anche perché lo spettacolo, a quanto abbiamo visto dalle reazioni del pubblico nei pochi concerti che abbiamo fatto, è sempre molto, molto caldo insomma, la reazione del pubblico. E i progetti futuri di ognuno di voi, Marco? Beh, intanto suonare col gruppo, quindi insomma perfezionare un po' non solo dal punto di vista tecnico, ma anche l'affinità, anche se appunto, come diceva Sandro, mi pare che già sì, insomma, si tocchi abbastanza con mano. Poi in realtà appunto si tratta anche di vedere un po', per riallacciarsi al discorso di Sandro, il fatto contrattuale con Wustmann, come gestirlo, perché anche quello, anche noi insomma, anche soprattutto quando si vuole avere un certo livello tecnico, è chiaro che dietro ci deve essere un impegno e quindi anche del tempo impiegato, che va a discapito di altre attività, chiaramente. Quindi tutti noi non siamo più dei ragazzini e abbiamo bisogno di far quadrare un po' di conti anche, insomma, ecco, questo. Tutto qua. Camillo adesso, diciamo, rispetto agli altri del gruppo, sono in una situazione un po' particolare, perché da poco è diventato padre. Quindi io diciamo che oltre ai Garden Wall, che rappresentano una fetta molto importante della mia vita, questi ragazzi fantastici, vorrei dedicarmi molto anche a mia figlia. Mauro? Ma i programmi futuri è suonare tanto con i Garden Wall, suonare ma tanto, perché è un qualcosa che nella mia vita mi dà un sacco di energia suonare. Al di là della musica dovrei laurearmi a luglio e quindi le cose cambieranno abbastanza, ma quello che mi interessa forse di più è poter suonare, continuare a suonare in questo modo insomma. E Alessandro? Io anche sono molto vicino a Mauro, voglio dire, per me i Garden Wall sono forse la cosa più importante della mia vita, insieme forse alla mia donna, per cui si tratta di qualcosa che io non posso ignorare, no? Voglio dire, io sono studente universitario, non mi laureerò quest'estate, pur avendo 3 anni più di Mauro. Proprio perché i Garden Wall mi assorbono in modo totale, e quindi riallacciandomi, quindi rimbalzando ancora al discorso che faceva Marco, bisogna cercare di prendere il massimo dai Garden Wall, oltre che da un punto di vista artistico, che è ovvio, anche almeno per un minimo di sostentamento economico, perché qui la situazione è abbastanza tragica, voglio dire, economicamente parlando. Per cui speriamo che ci siano degli sviluppi futuri più immediati possibili per riuscire a perlomeno a intravedere delle possibilità di lavorare con la musica, perché questo è non solo il mio, penso quello di tutti noi, punto di arrivo massimo, quasi utopistico se vuoi, però è questo il punto di arrivo che noi vorremmo raggiungere. Ora vi facciamo il giro con il messaggio finale per gli ascoltatori. Messaggio finale per gli ascoltatori, ma chi sono gli ascoltatori? Gli ascoltatori sono progressivi. Ah, quindi sono dei veri compagni, per usare un termine un po' desueto, esatto, ma sempre in voga. È Radio Brescia Popolare, eh? In fondo. Ah, Radio Brescia Popolare, sì. Allora non è tanto desueto. Benissimo. Non c'è problema. E quindi ragazzi in campana, che qua appunto per tanti aspetti la situazione, come diceva Sandro, è tragica. Non si parla solo di musica, ma appunto bisogna essere sempre positivi e propositivi. Vi lancio questo messaggio per il 1996. Camillo? Non essendo un drago del foro come Marco, è praticamente l'unico appello che voglio fare in qualche modo agli ascoltatori di Radio Brescia Popolare è quello di continuare a sostenere la musica progressiva e l'intelligenza della musica. Esattissimo, Mauro. Vorrei ringraziare tutti i nostri fans progressivi e dare un lungo e soffice bacio a tutte le nostre fans. Ai ai ai, e qui tocchiamo. Basta. Posto, Alessandro. Dunque, io faccio una precisazione, dovete sapere che Mauro è veramente il playboy della band. No, è la verità. No, come non è vero, è la pura verità. C'è sempre qualcuno, siccome io sono l'ultimo del giro, c'è sempre qualcuno che mi ruba le parole. Questa volta è stato Camillo. Io sottoscrivo, cioè, voglio dire, è ora di finirla, secondo me, con questi personaggi che hanno questa poesia, voglio dire, chiaramente sono ironico, questa pregna poesia suburbana, post-industriale, del caffè magari, e che sì, e che in definitiva veramente fanno rincoglionire la gente, non se ne può più, insomma. Cerchiamo di ascoltare di tutto, per l'amor di Dio, io non dico che bisogna ascoltare solamente il progressivo, c'è della musica fantastica in tutti i generi, dal 1200 fino ad adesso, però cerchiamo di non farci abbindolare da sti personaggi di quarta lega che niente hanno a che fare con la musica. D'accordo, un mega saluto in coro. Ciao, ciao, ciao.